This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Te Dio domenicale, quanta droga consuma. Ok, ci dovremmo essere, prova anche tu? Sì, io ti sento, adesso ti sento. Allora, This Is Not an Exit è una trasmissione che si occupa di un periodo di tempo che va tra l'88 e il 93, i nostri ascoltatori un po' ormai lo sanno, è più di un anno e mezzo che andiamo in onda. È un periodo che ci interessa perché è un periodo poco storicizzato, ma secondo me è molto importante. E poi devo dire che anche voi, io ragazzino, però insomma, anche il vostro cambiamento CCCP, CSI mi ha sempre interessato un sacco. Ci ho messo un po'. È proprio lì in mezzo. Calora le donne ed arde di uomini e gli consuma il cuore. Sofia, sapienza, Sofia. Calora le donne d'arde, arde di uomini, e gli consuma il cuore. Solo in sogno, Sofia, sussurra un'altra volta, vivi, io lo sarò. Guardami tra le nuvole e i veli, Sofia, sussurra un'altra volta, vivi. Io vivrò. Vivrò l'ordine, la libertà, l'obbedienza, la responsabilità, l'uguaglianza. Vivrò la gerarchia, l'onore, la punizione. Vivrò la libertà d'opinione, la sicurezza, il rischio, la proprietà. Vivrò la verità che è ultima, la prima. Thank you. cittadine e cittadini, parvoli anfantini e cervelli, giustizia propria e senza prezzo, non dico il favorismo, ma folklore greco, il moderno negoziato è finito, vuole anche del tempo, libero democratico progresso. L'8 dicembre del 1991 i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono gli accordi che poi stabilirono la fine dell'Unione Sovietica, che poi venne sancita proprio per il giorno di Natale, il 25 di dicembre. Ma io volevo chiedere soprattutto, io ero molto piccolo, ma volevo chiedere soprattutto a voi o a te come percepivate da lontano a Reggio Emilia, per quello che eravate, per quello che comunque avevate visto, perché eravate stati anche a Mosca a suonare, ma soprattutto cosa stava succedendo attorno a voi e poi alla lunga cosa vi ha portato, ma è già più facile magari forse anche voi a cambiare nome in CSI, che sta per Commonwealth degli Stati Indipendenti. Beh, diciamo che insomma a noi è capitato di, per fortuna, per caso, per scelta, per volontà, insomma per tanti motivi, di poter seguire molto attentamente l'evolversi della situazione in tutti i paesi dell'est, di quella che si chiamava Est Europa, a partire dagli inizi degli anni Ottanta. Per storie, perché io sono emiliano, Giovanni Emiliano di Reggio Emilia, quindi la nostra città e l'identità di questa città si è sempre legata molto a quel mondo, no? Sia a livello immaginario che politico, proprio come punto di riferimento. Quindi quando abbiamo costituito i CCCP agli inizi degli anni Ottanta, era chiaro che eravamo interessatissimi a quello che succedeva oltre quella che si chiamava Cortina di Ferro, insomma al di là del muro sostanzialmente. E abbiamo potuto seguire musicandolo tutto il crollo di quel mondo che insomma sembrava un statuario immobile, irrigidito in forme anche molto oppressive, no? E poi dopo negli ultimi anni degli anni Ottanta c'è stata proprio una verticalizzazione improvvisa, che sia stato Gorbachev, che sia stato Yeltsin, che sia stata la Perestroika, insomma questi sono tutti motivi scardinanti, però veramente quel mondo è proprio scoppiato, è caduto per terra come un soufflé, tant'è vero che mese dopo mese noi come qualunque spettatore del mondo occidentale c'era di rimanere incredulo veramente, perché non è stato un procedimento domino a catena in cui ogni stato ha cominciato a reclamare il nuovo sostanzialmente. Ricordo in particolare quando nelle bandiere nazionali veniva tagliata un cerchio all'interno per buttare via quelli che erano i simboli del regime, no? Per cui rimaneva la bandiera nazionale con questo buco in mezzo. Questa è un'immagine abbastanza forte. E poi pian piano niente, insomma, quel mondo si è dissolto. E adesso non voglio dire che noi abbiamo seguito artisticamente pari pari quel processo, sarebbe veramente presuntuoso. Però insomma noi siamo uomini umani e quindi seguivamo un percorso che era assolutamente solo nostro. Però c'è stata questa concomitanza, diciamo, alla chiusura dell'esperienza CCCP della linea è arrivata di pari passo con il crollo del muro di Berlino alla fine dell'89, insomma dopo noi abbiamo tirato avanti un altro annetto, ma ormai c'è la consapevolezza che la storia stava finendo, che stava finendo per evolversi in altro, che si è chiamato poi CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, Comunità Stati Indipendenti. Tra l'altro questo passaggio è stato favorito dalla conoscenza con quelli che erano all'epoca ancora musicisti di Litfiba, Gianni Maroccoli in particolare, sono Francesco Magnelli, Giorgio Canali, favorito da un viaggio che abbiamo fatto assieme proprio in Russia, a Mosca e a Leningrado, per andare a suonare in quei luoghi che ancora erano inaccessibili per i gruppi italiani, e quindi ci è capitato di seguire sempre molto da vicino quelle vicende. Pro la sera io piedi scalzi ricoperto il capo, canterò il vespro la sera. Ecco che muove sgretola di laga, ecco che muove sgretola di laga. Uno si dichiara indipendente e se ne va, uno si raccoglie nella propria intimità, l'ultimo proclama una totale stranità. Tu con lo sguardo eretto alla fenice, adirato all'imbrunire, tu non cantavi mai la sera, non cantavi mai, tu non cantavi mai la sera, non cantavi mai. No, non ora, non qui, questa pingue immane frana. No, non ora, non qui, no, non ora, non qui. No, non ora, non qui, no, non ora, non qui. Se l'obbedienza è dignità, fortezza, la libertà una forma di ma non ora, non qui, no, non ora, non qui, ma non ora, non qui, no, non ora, non qui. Sera, non cantavi mai, non cantavi mai la sera, non cantavi mai. Anzi, se non ricordo male, passaste per Maglie, fu il sindaco di Maglie che vi organizzò la spedizione in terra moscovita. Beh, è quasi paradossale questo, perché noi da buoni emiliani avremmo sempre desiderato che il comune di Reggio o Italia o URSS o l'ARCI o qualcuno, il PC, qualcuno legato al nostro mondo ci prendesse per mano portandoci nei luoghi dove secondo noi era giusto andare a intervenire così culturalmente, no? Poteva essere andare a suonare a Mosca o a Leningrado, insomma in quel mondo, ma questo non è mai stato possibile. Il comune più lontano di tutti da queste nostre aspettative, anche da quel mondo dell'est, era il comune di Melpignano. È vero, Melpignano. Del Salento, che grazie a uno scambio aveva organizzato un festival in cui abbiamo suonato noi alcuni gruppi russi, e l'anno dopo ha proposto lo scambio inverso, cioè portare alcuni gruppi italiani, noi, Litfiba, i Rez in particolare, andare a suonare in quei luoghi. E quindi nella maniera più periferica, più impensabile, ci è capitato di andare a suonare là nell'89. Ma quindi fu Galeotto il viaggio a Mosca, ma non c'entrarono esattamente gli equilibri politici internazionali nel farvi cambiare, nome. Internazionali tra gli uomini, nel senso che senza quel viaggio non ci saremmo probabilmente mai conosciuti né frequentati. E d'altra parte è sempre in quelle situazioni di spiazzamento lì, in cui non ti manca le tue coordinate abituali, no? Che riesci ad ammucchiare quella lucidità, quella voglia di nuovo, di apertura che serve, è servita ad esempio in questo caso per incontrare Maroccolo e cominciare l'esperienza CSI. forza e dignità, fortezza. La libertà è una forma di disciplina, assomiglia all'ingenuità, alla saggezza. Anche perché come CCCP stavate cambiando, anzi avevate addirittura una batteria umana per la prima volta, immagino, giù di lì, però le date più o meno coincidono, cioè il nome CCCP ve lo siete trascinato ancora, come dicevi tu, per un po'. Quando è che avete cambiato il nome in CSI e cos'è che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Abbiamo pubblicato l'ultimo album, Epica Etica Etnica Pathos, questo era il suo titolo. E poi dopo abbiamo deciso di sciogliere CSI, scusami, CCCP. E questo era il 90? Questo è nel 90. E poi, visto che non, le nostre intenzioni erano serie, non abbiamo assolutamente pensato di rimetterci a suonare subito, abbiamo dovuto lasciare passare un paio d'anni almeno per cercare di capire che cosa fare, cosa, non era così evidente neanche a noi questo passaggio. E poi pian piano è diventato evidente, era fin troppo chiara l'idea che noi avremmo dovuto continuare con un altro nome, con un'altra formazione, che è diventata CSI, che è stato il segno della nostra maturità artistica sostanzialmente. Ma avevate anche visto dei cambiamenti nei vostri confronti, anche nei posti e in locali dove andavate a suonare, per esempio le feste in unità, nei centri sociali, insomma nei luoghi magari più politicizzati? Io ricordo di avervi visto la prima volta nel 93 ed era una festa dell'unità. Sì, ma in realtà poi negli ultimi anni, alla fine di quel decennio, questa era abbastanza la norma. È stato molto più difficile agli inizi farci accettare, perché quelli che si chiamavano filosovietici o militanti non riuscivano a capire la nostra posizione. Quelli che invece si definivano panchettoni o occupanti di centri sociali, allo stesso modo non riuscivano a capire le ragioni del nostro fascino per luoghi assolutamente poco fascinosi come quelli che noi volevamo far conoscere. Quindi in mezzo a questa confusione, insomma, abbiamo faticato parecchi i primi anni. Poi dopo, insomma, i luoghi sono quelli, si suona le feste dell'unità, quello poi è il nostro mondo, e quello che noi portavamo sul palco era quel mondo. Ma questa incomprensione era già negli anni 80, o metà degli anni 80, quando eravate agli inizi, poi l'avete vista cambiare o è sempre stata la stessa? Ma no, l'abbiamo vista cambiare, perché poi anche quel mondo che supportava questa ambiguità, insomma questo spaesamento, pian piano si è andato sgretolando. Chi mai più ha pensato di appartenere ad associazioni come Italia o URSS con un minimo di senno, no? Alla fine era caduto proprio il presupposto che stava alla base di queste cose. Ma poi un'altra cosa volevo chiedervi: so che c'è il live in Pankow, quindi immagino abbiate suonato a Berlino più volte, ma siete poi mai tornati dopo la caduta del muro? Sì, parecchie volte, perché poi sei una di quelle città, insomma, che ti rimangono dentro veramente senza retorica, insomma, quelli sono quei posti formativi, seminali con cui ti devi confrontare sempre. Poi Berlino è stato ed è ancora un grandissimo laboratorio per il mondo attuale, no? E quindi ci siamo tornati parecchie volte. Ma a Reggio Emilia invece, come tu personalmente come la vedevi? Cioè, vedevi che si muoveva qualcosa, il partito cambiava, si adeguava, le persone stesse cresciute. Io ricordo la statua di Lenin che c'è ancora a Cavriago, ricordo percentuali bulgare nelle votazioni, il PC prendeva il 60%. Poi nel giro di pochi anni, come dicevi tu, è crollato tutto. Beh, questo lo ricordo perfettamente anch'io, c'erano percentuali ancora più bulgare a Campegine, c'erano dei luoghi in cui insomma il partito era il partito, non si scherzava. Insomma, d'altra parte diciamo che era anche entusiasmante questa cosa, no? Nel senso che una forza politica capace di coniugare tutti gli aspetti del vivere assieme, non solo la politica in senso stretto, ma proprio l'associazionismo, la salute, la sanità, la viabilità, l'urbanistica, giusto o sbagliata che fossero, non siamo qua a sindacare questo, anzi la maggior parte di queste intuizioni poi alla fine si sono rivelate profondamente sbagliate, mi sembra. Però era un progetto impressionante, credo, per la sua vastità, per la sua capacità di comprendere tutti gli aspetti del vivere. Ha mostrato poi la corda anche velocemente, insomma, l'Emilia di oggi è decisamente molto ma molto diversa. Beh sì, sono arrivati magari molti più soldi e sono cambiate le ideologie che ci sono dietro, non so come la vedi tu adesso, ma sta cambiando tutto, non solo in Emilia, in tutto il mondo. Sì, non saprei neanche dire se è il denaro quello che è il motore del mondo, probabilmente sono anche altre cose un po' meno facilmente scrutabili, diciamo. We'll be right back. Ma si vedeva qualcosa del genere anche nelle riviste di controcultura, comunque negli ambienti controculturali, cioè mi ricordo magari negli anni, mi ricordo, ho visto ripubblicati riviste come Il Male, Re Nudo, poi pian piano sono andate a sparire e invece alla fine degli anni 80 nasce Cuore, che era una rivista che veniva da quelle esperienze, ma come dire, era più morbida negli approcci, e c'era il Festival di Cuore, ricordo, a Montecchio, provincia di Reggio Emilia. Alla fine si gira, ma si arriva sempre da queste parti, no? Che sono quelle che forse hanno più a cuore, appunto, scusa il bisticcio, quel mondo che si è espresso in quelle forme, diciamo. Ma quindi era una realtà che vi permeava e vi dava, cioè, insomma, comunque siete nati storicamente a Berlino, comunque così dicono i libri di storia dei CCCP, poi comunque però il vostro vissuto reggiano sovietico, cioè, non si è mai capito bene quanto lo criticaste, lo prendeste in giro, ma o fosse anche parte di voi. Io immagino fosse tutto un insieme. Ma sai, tutto l'insieme, non è che puoi stare qua a sottilizzare con, come dire, con microscopio, no? Sezionarlo. Chiaro che per me Reggio presenta ancora motivi di fascino grandissimo, anche nel disastro attuale, voglio dire, perché comunque la città con cui io continuo a pensare di volermi identificare, dove voglio vivere, dove la storia di questo luogo mi interessa moltissimo e mi costituisce sostanzialmente. Ci sono dei luoghi decisamente molto più belli al mondo, molto più attraenti, molto più vivi anche, molto meno depressi sicuramente, però mi interessano poco, mi interessa passarci un breve periodo di vacanza, ma il posto in cui vivere è questo, perché questo è il confronto di cui ho bisogno. Thank you. E CSI nel 2015 che cosa sono? Cioè... innanzitutto sono una bella sorpresa per noi prima di tutto e poi forse anche per tanti altri che stanno pian piano arrivando ai nostri concerti eccetera. Una cosa che mi piace molto ricordare è che questo rilancio di CSI, che in realtà poi c'è anche un altro nome che è post CSI, abbiamo pensato di che la definizione più esatta fosse questa, no? con il post davanti, perché questo noi siamo. È ancora una volta la capacità di confrontarsi con quello che succede, quindi il primo progetto su cui stiamo veramente lavorando come progetto nuovo è il Breviario Partigiano, che uscirà il prossimo 25 aprile e che comprende un film, comprende un CD, comprende un libro dove abbiamo ospitato tantissimi interventi di musicisti, colleghi, registi, artisti, scrittori e quant'altro a proposito dell'essere partigiani. Che cosa significa ora essere partigiani, al di là della retorica, della voglia, delle aspettative eccetera, quali sono le parole con cui accompagnare una possibile resistenza? Esistono queste parole, siamo capaci di formularle, ci accontentiamo delle formule? Sono interrogativi che comunque ritagliano in parte la nostra vita e sono molto contento che i CSI, anzi post CSI, abbiano voglia di confrontarsi con questa. E questo lo porterete anche nel tour, anche questa sera? Lo porteremo nel tour, che si chiamerà Breviario Partigiano. In questo momento siamo molto impegnati a terminare la produzione, sia in termini di raccolta di fondi, sai che adesso è molto facile, è molto diffusa la pratica di un contributo da parte dei tuoi supporter, no? Che crowdfunding. Noi lo facciamo con Music Razor, insomma, sta andando anche bene. È un progetto molto complesso, perché è molto complesso lavorare in un film, produrre un CD e produrre un libro, però insomma stiamo riuscendo, ci fa pensare molto bene e soprattutto a me fa pensare molto bene questa voglia ancora attuale del CSI di confrontarsi. Va bene, no, sono molto contento e curioso di vedervi, perché questa sera, ricordo che questa puntata va in onda il 28 di febbraio, e il 28 di febbraio questa sera sarete qui in concerto a Bologna, se non vado errato, al Locomotive, vero? Non farmi domande imbarazzanti, perché non so mai dove sto andando fino al secondo prima. Ok, comunque suonerete qua a Bologna. Abbiamo fatto un bellissimo concerto l'estate scorsa, veramente molto affollati in centro, anche qua non mi ricordo esattamente come si chiamava il luogo, e quindi diciamo che ci sono tutte le possibilità per replicarlo altrettanto bene anche qua, anche in serata, diciamo. E anche Bologna, insomma, fa parte delle nostre piccole patrie. Va bene, grazie mille Massimo per essere stato qua con noi a parlarci di quello che siete stati e quello che siete diventati in questi, ahimè, 25 anni. Anche 30 più, diciamo. Eh sì, anche 30 più, sì, se contiamo gli inizi del CCCP, perché voi quando è che vi siete formati come nell'82, CCCP? Nell'81, diciamo. E allora sono 34 ormai. L'abbiamo detto. Beh, comunque, bene, bene così. Grazie ancora, grazie a voi, e a ben rivederci dal vivo. Saluto. Certo. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pump up the volume. Pump up the volume.